sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Innoviamo o saremo travolti, così Walter Veltroni alla direzione del PD riunita da questa mattina a Roma. Si discute di questione morale e organizzazione interna. Siamo persone per bene, ha detto il segretario. Per i disonesti non c'è posto nel Partito Democratico. L'inchiesta sugli appalti truccati a Napoli. Oggi gli interrogatori di garanzia dei due assessori e dei due ex assessori comunali agli arresti domiciliari. Già sentito l'ex assessore Enrico Cardillo, che ha respinto tutte le accuse. Vado via a gennaio perché i tagli alla finanziaria sono inaccettabili, l'ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla protezione civile Bertolaso. Il presidente della Camera sul caso della presidenza di vigilanza RAI: è opportuno e doveroso porre fine all'anomalia della presidenza Villari, ha detto Gianfranco Fini. Crolla ad ottobre il fatturato dell'industria italiana, meno 5,9% rispetto all'anno scorso. In un mese la diminuzione è stata del 4,3%, male il settore auto. Il rapporto annuale della Guardia di Finanza: nel 2008 sono stati scoperti più di 6.000 evasori totali. Champions League, i sorteggi degli ottavi di finale, triplice sfida Italia-Inghilterra. Sarà Juventus-Chelsea, Inter-Manchester United e Roma-Arsenal. Il CT della nazionale inglese Fabio Capello commenta con ironia: è un'urna diabolica. Addio alla gola profonda del Watergate. È morto a 95 anni Mark Felt, l'uomo che con le sue rivelazioni contribuì a portare alla luce lo scandalo culminato con le dimissioni del presidente Nixon. Gerex Alarge, buongiorno da Alessio Maurizi. Ed Alessandra Tedesco. Giornata dunque cruciale, come avete sentito anche dai GR, dai titoli di Extra Large, per il Partito Democratico, oggi a Roma riunito nella sua direzione. La più difficile in 14 mesi di vita. Si parla del partito, della sua struttura, di una cabina di regia per affrontare questo momento difficile, ma anche naturalmente della questione morale delle inchieste a Napoli. Eh sì, perché è stata proprio l'inchiesta a Napoli a far scoppiare il bubbone della questione morale. Questa della direzione di oggi sarà quasi una maratona, insomma si andrà ad esaurimento degli interventi, appunto, di tutti quelli che compongono la direzione del PD, poi ci sarà il voto su un documento finale. Andrea Viali, tu sei nella sede del PD, hai sentito cosa ha detto Veltroni oggi? Raccontaci un po'. Sì, Veltroni innanzitutto ha difeso l'immagine del Partito Democratico, quella che esce dal bollettino delle inchieste giudiziarie di questi giorni è un'immagine deformata, perché, ha detto Veltroni, i nostri amministratori, che sono centinaia di migliaia, sono persone per bene. Proprio per questo però non c'è posto per i disonesti nel partito, ha ammonito Veltroni, che ha anche chiesto il potere di commissariare quelle realtà locali del partito segnate appunto da episodi di scarsa trasparenza. Veltroni ha anche sferzato i suoi innoviamo o saremo travolti, ha detto, ma sentiamo un passaggio del tua relazione. Un partito ha pochi poteri di intervento su se stesso in chiave punitiva e repressiva. Ha invece grandi responsabilità e possibilità nella prevenzione di comportamenti illeciti o comunque sbagliati. Perché se organizziamo la nostra vita interna in modo da tollerare fenomeni di malcostume politiche, per quanto non penalmente rilevanti, di fatto finiamo con l'abbassare la soglia etica e creiamo le premesse anche per le violazioni delle leggi. Il Partito Democratico è un partito nuovo anche perché la prevenzione del malcostume politico intende farla sul serio. Anche, lo voglio dire, e lo voglio dire a tutti noi, anche se questo dovesse costare nell'immediato pagare dei prezzi in termini di consenso elettorale. Non ho nessuna paura, voglio essere chiaro anche in questo caso, di perdere voti se questo significa combattere e sconfiggere quei fenomeni di inquinamento che rischiano di avvelenare la nostra vita interna. Per i disonesti non c'è posto nel Partito Democratico. Sulla riforma della giustizia, altro tema al centro delle cronache di questi giorni, Veltroni ha detto che è necessaria ma non va fatta contro i magistrati, che ha invitato a procedere ma con cautela nelle loro inchieste. Rivolto invece a Berlusconi, Veltroni ha detto che il PD non accetta lezioni da chi si è fatto leggi ad personam. Quanto infine all'alleanza con Di Pietro, che secondo diversi esponenti del PD sta danneggiando il partito, Veltroni dice: siamo forze politiche che fanno un'opposizione molto diversa, ma questo non esclude la possibilità di andare insieme a livello locale. Questa è la posizione di Veltroni, ora è in corso il dibattito, sono più di 80 gli iscritti a parlare, la riunione avrà dunque tempi lunghi e dovrebbe concludersi in serata con un voto, forse su un documento unitario. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Andrea, infatti è per questo che stavamo parlando parlando proprio di maratona oggi di questa direzione del PD. Ancora 80 interventi, non sono pochi. Però ha parlato Veltroni, vedremo se ci sarà un documento su cui esprimersi. Intanto cerchiamo di interpretare anche queste dichiarazioni. Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. C'era molta pressione su Walter Veltroni dopo tutto quello che è accaduto al suo partito con gli amministratori locali coinvolti in varie inchieste, non solo quella di Napoli. Stefano, ti pare un chiarimento sufficiente quello di Veltroni questa mattina? Che cosa poteva fare? Ma io credo che sia un passaggio cruciale nella vita del Partito Democratico e sarebbe un po' illusorio immaginare che si risolva oggi. Oggi Veltroni ha detto quello che doveva dire in un certo senso, perché è il suo ruolo ed è il suo personaggio che lo obbligano a questo, alle cose che ha detto oggi. Non credo però che questo costituisca di per sé un chiarimento e che si possa da stasera archiviare il grande problema che sta investendo il Partito Democratico e che tocca proprio la sua identità e la sua prospettiva strategica. Veltroni insiste a presentarsi come il nuovo rispetto al resto del partito, che sarebbe il vecchio, sarebbe il passato. Questa è un'operazione di cui capisco la logica, che è destinata nelle sue intenzioni ad attribuire a lui, a Veltroni, un grande potere per condizionare anche il dibattito e per mettere un po' con le spalle al muro i suoi avversari interni. Non so però se Veltroni abbia la forza per gestire un'operazione di questo genere. Quello che si chiama il rinnovamento del partito in realtà dovrebbe partire, a mio avviso, dalla considerazione che un po' tutto il vertice del Partito Democratico... Insomma, ci potrebbero essere delle vittime illustri di questa ristrutturazione. La cosa che non si spiega però abbastanza è che forse Veltroni non è abbastanza credibile per gestire lui il rinnovamento, nel senso che non è lui il nuovo e tutti gli altri appartengono al passato. Lui appartiene a una storia, a una certa storia, e quindi anche lui in qualche misura avrebbe bisogno forse di un bagno in un effettivo rinnovamento. Forse è l'intero partito, l'intero vertice del partito che dovrebbe mettersi in discussione. E non basterà sicuramente la direzione di oggi. Grazie per ora a Stefano Folli per essere stato con noi, editorialista del Sole 24 Ore. Non solo Veltroni oggi, eh? No, non solo Veltroni. Prima lo sentivate, il segretario del Partito Democratico ha anche accennato al problema della riforma della giustizia, ma è soprattutto il governo, la maggioranza, a premere affinché questa riforma si faccia. Infatti oggi ha parlato il Premier. È intervenuto Silvio Berlusconi a Mattino 5 e tra l'altro anche con un'apertura proprio all'opposizione sulla possibile riforma della giustizia, che ha detto è prontissima. Sentiamo. Sappiamo che c'è urgenza di avere questa riforma, anche perché si è scatenata di nuovo il meccanismo, direi, mediatico, giudiziario delle intercettazioni e delle indagini, che io credo non sia qualcosa di positivo per il Paese. Mi auguro anche che queste accuse rivolte ad amministratori della sinistra possano essere ridimensionate, e quindi io penso che questa riforma della giustizia, che faremo andare avanti di pari passo con quella del federalismo, possa vedere la luce molto presto. Di riforme ha parlato anche il presidente della Camera Gianfranco Fini nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa parlamentare, ribadendo in sostanza che devono essere condivise. Ma Fini, Alessio, ha toccato anche un altro tema spinosissimo. Sì, un tema che insomma è stato la ribalta delle cronache fino a qualche giorno fa, ma lo è in parte ancora. Parliamo della presidenza della commissione di vigilanza Rai, che è ancora in mano a Riccardo Villari, e anche da Fini anche oggi un nuovo pressing. Sentiamo. Esprimo ancora una volta l'auspicio che si proceda in tempi solleciti attraverso le dimissioni del Presidente Villari, o qualora possibile, un problema che riguarda in questo caso il Senato e quindi non posso e non voglio interferire, essendo diventato senatore del gruppo misto e non più del Partito Democratico, un'interpretazione regolamentare attraverso una sorta di revoca del mandato, che comunque credo abbastanza ardua essendo stato eletto, insomma. Comunque, al di là delle tecnicalità, credo opportuno, doveroso porre fine a questa anomalia. Ma veniamo all'inchiesta sugli appalti truccati a Napoli, quella in sostanza che ha fatto scoppiare la questione morale, visto che sono coinvolti due assessori e due ex assessori comunali. E allora andiamo subito a Napoli, dove c'è Enzo Danna. Enzo, ti chiediamo che cosa ci racconta la giornata di oggi sul fronte giudiziario. Oggi gli interrogatori interrogatori degli ex assessori Enrico Cardillo, Ferdinando Di Mezza e Felice Laudadio, tutti e tre agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti sospetti. È stato rinviato a domani invece quello dell'altro assessore coinvolto, Gambale, che ha chiesto di poter approfondire tutti gli elementi contenuti nell'ordinanza dei magistrati. Si è concluso da pochi minuti l'interrogatorio di Enrico Cardillo, l'ex assessore, apparso sereno e ha respinto tutte le accuse. Ieri era stato ascoltato nel carcere di Poggio Reale l'imprenditore Alfredo Romeo, il personaggio attorno al quale ruota l'intera indagine. Secondo i magistrati sarebbe al centro di un sistema di affari per beneficiare dell'assegnazione di appalti pilotari. Romeo ha negato ogni addebito, dichiarandosi innocente e affermando che i suoi rapporti con gli esponenti politici locali erano solo di tipo amministrativo, previsti dal contratto di gestione del patrimonio immobiliare comunale stipulato con Palazzo San Giacomo. Va detto che l'inchiesta sugli appalti va avanti, i magistrati della direzione distrettuale antimafia stanno ora puntando la loro attenzione sui rapporti tra Alfredo Romeo e politici e funzionari della regione Campania. Per il momento è tutto da Napoli, vi restituisco la linea. Grazie Enzo Danna, noi da Napoli ci spostiamo a Nyon in Svizzera, non parliamo né di cioccolato né di cronaca, neve, né di notizie di giustizia, sono notizie molto più piacevoli se vogliamo. Eh sì, perché Nyon ci fa venire subito alla mente i sorteggi di Champions League e Coppa UEFA. Dario Ricci, com'è andata? Urne diaboliche. Sì, urna diabolica, come la definisce Alessio, l'ha definita anche Fabio Capello, CT dell'Inghilterra, perché proprio contro le grandi del calcio inglese si andranno a scontrare Juventus, Inter ed Arsenal. Ebbene, si parte per gli ottavi di Champions League il martedì 24 febbraio, pensate, con due grandissimi scontri, Inter-Manchester United, e il Manchester è la squadra detentrice della Champions League e domenica sarà impegnata nella finale della campionato del mondo per club contro i sudamericani del Quito, quindi insomma scontro ai massimi livelli, così come Mourinho si aspettava. E poi sempre martedì 24 febbraio Arsenal-Roma, i giallorossi, è stato proprio Bruno Conti a pescare dall'urna di Lyon questo avversario per la sua Roma. Il 25 poi, mercoledì, è il momento di Chelsea-Juventus, altra grandissima sfida per i bianconeri di Claudio Ranieri, che è proprio ex allenatore del Chelsea, squadra che ha di fatto, a cui ha garantito una dimensione internazionale, scontro inedito, ma insomma anche qui si parla dei vice campioni d'Europa in carica, visto che proprio l'ultima finale il Manchester l'ha vinta ai rigori contro il Chelsea. E a fronte di questi big match, gli altri sorteggi, pensate, un Villarreal Panathinaikos fra le due cenerentole nell'urna, poi Sporting Lisbona, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Porto, Lione, Barcellona, altra sfida attesissima, e poi altre due grandi d'Europa che si affronteranno al Bernabeu, scusate, e poi ad Anfield Road, Real Madrid, Liverpool. Siamo ancora in attesa dei sorteggi di Coppa UEFA, ci risentiamo dopo, ma direi che come antipasto questo può più che bastare. Grazie Dario Ricci, tutti in attesa dunque che Italia e Inghilterra diano spettacolo nella Champions League a partire da febbraio. GR Extra Large, sono le 13:17, queste le notizie principali della giornata. Innovazione o fallimento, non usa mezzi termini il segretario del Partito Democratico Veltroni parlando al suo partito. La questione morale è centrale e nel PD non c'è posto per i disonesti, ha detto Veltroni, che però ha aggiunto: non accetto lezioni di moralità dal Presidente del Consiglio. Tutto si può accettare sinceramente, tranne le lezioni che vengono da chi tra le sue file è indagati per reati connessi alla mafia e alla camorra. Da chi, mi riferisco al Presidente del Consiglio, e voglio dirlo senza alcuna concessione alla demagogia, ma per semplice verità dei fatti, ha scelto di fronteggiare le sue vicende giudiziarie varando una serie infinita di leggi ad persona. L'inchiesta sul sistema Romeo punta dritto verso gli appalti e le politiche della regione Campania governata negli ultimi 8 anni da Antonio Bassolino. È scritto nero su bianco nella richiesta dei pubblici ministeri al giudice per le indagini preliminari. Oggi i magistrati sentono gli assessori sospesi dalla giunta Iervolino. Intanto l'ex assessore Cardillo ha respinto tutte le accuse. E sulla riforma della giustizia interviene Berlusconi. I tempi sono immediati perché si è scatenato di nuovo il meccanismo mediatico giudiziario delle intercettazioni. La riforma è già pronta, assicura il Premier, che apre all'opposizione: siamo aperti ad eventuali suggestioni. Vado via a gennaio perché i tagli alla finanziaria sono inaccettabili, lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Protezione Civile Bertolaso. Crolla il fatturato dell'industria italiana, a ottobre giù del 5,9% rispetto ad un anno fa. Anche peggio vanno gli ordinativi, che nell'ultimo anno sono calati del 12,2%, e questo è il dato peggiore dal dicembre del 2001. Il direttore scientifico ricerche congiunturali dell'Istat, Giampaolo Oneto. Nel caso del fatturato il dato negativo, calo del 5,9% questo ottobre rispetto all'ottobre di un anno fa. Bisogna dire che è un dato tutto sommato in linea con quello che già avevamo tirato fuori qualche giorno fa sulla produzione industriale, e dà un'idea di una situazione difficile dell'industria. Redditi non dichiarati per 27,5 miliardi di euro, oltre 6.400 evasori totali. Questi alcuni dati contenuti nel rapporto annuale 2008 della Guardia di Finanza, illustrato oggi a Roma dal comandante generale Cosimo D'Arrigo, secondo il quale dalla lotta all'evasione si potrebbero recuperare 90 miliardi di euro. Il Parlamento deve legiferare su questi temi. Il presidente della Camera Fini interviene sul caso di Luana Englaro. Per Fini la legislazione va aggiornata di fronte ai progressi della scienza. Intanto, dopo che la Casa di Cura Città di Udine ha parlato di atto intimidatorio da parte del ministro Sacconi, interviene anche il presidente del Friuli Tondo, che a Radio 24 rompe il silenzio. L'atto del ministro non produce effetti. Calcio, sarà Italia-Inghilterra agli ottavi di Champions. Dai sorteggi escono Juventus-Chelsea, Inter-Manchester e Roma-Arsenal. L'andata. Vado via. Con queste semplici parole il sottosegretario Bertolaso, con delega alla protezione civile, ha annunciato, come avete sentito poco fa anche nei titoli di Extra Large, stamattina la possibilità di dimettersi. Andiamo subito a Roma. Eh sì, Vincenzo Miglietta, allora perché questa decisione di Bertolaso? Sì, buongiorno. Sotto accusa vi sarebbe la situazione del Piemonte e le difficoltà operative incontrate dalla protezione civile durante l'ultima ondata di maltempo. Al momento sembra però più una minaccia che una decisione già presa, quella del numero uno della protezione civile. A riferire lo sfogo di Bertolaso sono stati alcuni parlamentari presenti in commissione ambiente della Camera. Sembra che per dare la notizia ai deputati Bertolaso abbia chiesto che venissero spenti i microfoni che trasmettevano in diretta il suo intervento. In particolare il deputato della Lega Nord Dussin ha parlato di un Bertolaso fortemente arrabbiato, che avrebbe detto inoltre che lui risponde solo a Berlusconi e che entro il 5 gennaio vuole avere risposte, segnali o si dimetterà. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Il Parlamento non può sfuggire al dovere di legiferare su questi temi. Avete sentito poco fa anche dai nostri titoli, l'ha detto Gianfranco Fini, intervenendo sulla questione del caso di Eluana Englaro. Per Fini la legislazione va aggiornata di fronte ai progressi della scienza. Intanto, dopo che la Casa di Cura Città di Udine, dove tutto è pronto per assistere Eluana nel momento in cui verrà staccato il sondino che la nutre, ha parlato di atto intimidatorio da parte del ministro Sacconi, interviene il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Tondo, che a Radio 24 ha rotto il suo silenzio. Sentiamolo al microfono di Alessandro Milan. Io ritengo che l'indirizzo del governo non abbia a produrre effetti, ma che poi la scelta debba essere in qualche modo ribaltata sulla regione, così come viene richiesto oggi, mi pare francamente una cosa su cui non posso esprimermi, anche perché si tratta, come ho avuto sempre modo di dire, di un atto tra privati, tra un privato che si vede riconosciuto il diritto, il papà di Eluana Englaro, riconosciuto in Cassazione, e un altro privato, un'azienda, una clinica che si era dichiarata disponibile a fare in modo che questo diritto possa essere esercitato. Ribaltare sulla regione in questo momento mi sembra una cosa su cui non mi sento in grado ancora di intervenire. Ha sentito Rico Bon però parlare di intimidazioni nell'atto di Sacconi, addirittura lei condivide questa parola? Io ho detto questo, il governo ha fatto un intervento, una circolare che a mio avviso non produce effetti, mi è sembrata forte l'espressione del ministro di dire che quella in cui ha detto che avrà conseguenze inimmaginabili. Ma lei non si sente di rischiare di andare contro anche politicamente? Lo so che in questa vicenda di politica forse ce n'è un po' troppa, ma politicamente contro il governo? Il sottosegretario Roccella ha detto se rompe il governatore. Io sono contro il governo in questo momento proprio all'ultima delle mie preoccupazioni. Questo dunque il presidente della Regione Friuli Tondo a Radio 24 questa mattina. Oltre 6.000 gli evasori totali scoperti in Italia nel 2008, redditi non dichiarati per 27 miliardi e mezzo di euro. Questo è il bilancio fatto oggi dalla Guardia di Finanza. Redditi non dichiarati per oltre 27 miliardi e mezzo di euro, più di 6.400 evasori completamente sconosciuti al fisco. E questa la fotografia del paese consegnata nel rapporto annuale della Guardia di Finanza. Il dato riguarda il 2008 e racconta di un incremento nell'evasione di circa il 30% rispetto al 2007. Insensibile aumento è anche il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale. In questo settore sono stati constatati infatti nel corso del 2008 dati imponibili evasi per oltre 5 miliardi di euro, quasi tre volte superiori a quelli dell'anno scorso. In aumento anche le frodi fiscali, con 7.400 persone denunciate all'autorità giudiziaria, e un incremento dell'IVA evasa mediante emissione e utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti, pari a 2,3 miliardi di euro, superiore anche in questo caso del 45% rispetto a quella scoperta nel 2007. Cristina Carpinelli, GR24, Sole 24 Ore. Abbiamo detto triplice sfida tra Italia e Inghilterra dalle urne svizzere per quanto riguarda la Champions League, questi sorteggi degli ottavi di finale. Ricolleghiamoci con Dario Ricci perché i sorteggi vanno avanti, ora c'è l'UEFA. Che cosa è venuto fuori, Dario? Impegni difficili almeno per Milan e Fiorentina nei sedicesimi di finale. Il Milan ha pescato proprio quel Werder Brema che nell'ultima gara del girone eliminatorio di Champions League ha battuto l'Inter, mentre la Fiorentina ha pescato per la Fiorentina sfida con una grande d'Europa, gli olandesi dell'Ajax. Meglio è andata il sorteggio per la Sampdoria che trova il Metalist Kharkiv dell'Ucraina, anche per l'Udinese che affronterà i polacchi dell'Lech Poznan. Ricordiamo gli avversari degli italiani invece negli ottavi di Champions League, sfide con le tre grandi inglesi: Chelsea, Juve, Inter, Manchester United e Arsenal Roma. Grazie Dario. Alessio, se io ti dico la parola gormiti, tu sai cosa sono? Adesso sì, perché so che ce ne siamo occupati in radio. Vabbè, ma non vale, non vale. In realtà non sapevi cosa fossero i gormiti. No, assolutamente. Ecco, personaggi amatissimi dai bambini. Chi ha figli non può non aver mai comprato un gormite, credo si dica così al singolare. E ne parliamo perché ieri a Milano c'è stata la prima del musical I Gormiti. Musical che poi andrà nelle principali città italiane. A gennaio sarà a Bari, poi a Bergamo, Varese, a febbraio a Gallipoli, a marzo a Roma. La nostra Piera Ceci è stata costretta da suoi figli a vedere questo musical. Sentiamo cosa ne pensa. I gormiti vi danno il benvenuto. Considerato il tema spaventoso dello spettacolo, il vecchio saggio consiglia a tutti i bambini fifoni di tornarsene a casa. E invece si divertono tutti i bambini, anche quelli fifoni. Uno solo, infatti, ieri alla prima a Milano è fuggito dalla sala. Gli altri ci sono restati come nella sala. Magari stretti in braccio a mamma, papà, nonno, nonna, tantissimi nonni, eterni bambini. E si sono divertiti un mondo a vedere saltare gli acrobati, davvero bravi, travestiti da gormiti. Stiamo pur sempre parlando di uno spettacolo teatrale, di un musical, e allora partiamo dalla trama. I gormiti buoni lottano, e ovviamente vincono, contro i gormiti cattivi. Stop, punto. Perlomeno per noi adulti che guardiamo i nostri figli giocare con rigoroso rispetto tutto il giorno con questi mostriciattoli orrendi, ficcarli in frigorifero, nell'acqua per vederli cambiare colore e naturalmente farli lottare. Il regista Maurizio Colombi. A me mi hanno dato l'appellativo che mi piace da morire, mi vanto di questa cosa di creatore di sogni, nel senso che l'anno scorso era molto circense, era molto figurativo, molto spettacolare. Quest'anno invece ho appagato di più il piacere dei bambini più piccoli, perché è una lotta dall'inizio alla fine. Sai, i gormiti sono i soldatini che noi usavamo un tempo, indiani cowboys, che li facevamo scontrare con le mani, no? E i bambini, io ci ho giocato con i bambini anche, con i gormiti, no? E loro vogliono la lotta, vogliono vedere i poteri dei gormiti. E non se lo dimenticheranno mai, bambini, il pugno dato dal vivo, come succede alla fine dello spettacolo, al loro gormito preferito. Noi adulti invece non ci dimenticheremo mai le urla dei piccoli scatenati nelle nostre orecchie. Tappi consigliati. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore. Alessio, devo rettificare, mi segnalano dalla regia che il singolare di gormiti non è gormite, come io ho detto erroneamente, ma gormito. Chiedo venia a tutti i bambini. È un errore perdonabile. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Innovazione o fallimento? Dopo le bufere giudiziarie, il segretario del PD Veltroni parla al suo partito. La questione morale è centrale, ha detto Veltroni, ma non accetto lezioni di moralità dal presidente del Consiglio. E nel PD però non c'è posto per i disonesti. Il Partito Democratico è un partito nuovo anche perché la prevenzione del malcostume politico intende farla sul serio. Anche, lo voglio dire, e lo voglio dire a tutti noi, anche se questo dovesse costare nell'immediato pagare dei prezzi in termini di consenso elettorale. L'inchiesta sul sistema Romeo punta dritto verso gli appalti e le politiche della regione Campania governate negli ultimi 8 anni da Bassolino. È scritto nero su bianco nella richiesta dei pubblici ministeri al giudice per le indagini preliminari. Oggi i magistrati sentono gli assessori sospesi della giunta Iervolino. Intanto l'ex assessore Cardillo ha respinto tutte le accuse. E sulla riforma della giustizia interviene Berlusconi. I tempi sono immediati perché si è scatenato di nuovo il meccanismo mediatico giudiziario delle intercettazioni. La riforma è già pronta, assicura il Premier, che apre all'opposizione su possibili emendamenti. Crolla il fatturato dell'industria italiana a ottobre, giù del 5,9% rispetto ad un anno fa. Anche peggio vanno gli ordinativi, che nell'ultimo anno sono calati del 12,2%, è il dato peggiore dal dicembre 2001. Redditi non dichiarati per 27 miliardi e mezzo di euro, oltre 6.400 evasori completamente sconosciuti al fisco. Questi alcuni dei dati principali contenuti nel rapporto 2008 della Guardia di Finanza, illustrata oggi a Roma dal comandante D'Arrigo, secondo il quale dalla lotta all'evasione si potrebbero recuperare 90 miliardi di euro. È morto a 95 anni Mark Felt, la gola profonda dell'FBI, che con le sue rivelazioni contribuì a portare alla luce lo scandalo Watergate. Per 30 anni l'identità dell'informatore restò segreta. Calcio, sarà Italia-Inghilterra agli ottavi di Champions. Dai sorteggi escono Juventus-Chelsea, Inter-Manchester e Roma-Arsenal. In UEFA il Milan incontra il Werder Brema, l'Udinese il Lech Poznan, la Sampdoria il Metalist Kharkov, la Fiorentina se la vedrà con l'Ajax. Non ci sono buone notizie sul fronte economico. È uscito oggi dall'Istat il nuovo dato sul fatturato dell'industria italiana. Alessio, com'è andata? È andata male, a seguire il dato della disoccupazione di ieri. Dunque, il dato di oggi parla di un meno 5,9% per quanto riguarda il fatturato e di un meno 12,2% per quanto riguarda gli ordinativi, che tra l'altro guardano al futuro. Ed è questo il dato peggiore dal dicembre del 2001. Dato che riguarda il mese di ottobre. Allora tu, Alessio, hai sentito Giampaolo Neto, direttore scientifico ricerche congiunturali dell'Istat. Sentiamo cosa ti ha detto. Questa mattina abbiamo tirato fuori i dati relativi al fatturato e agli ordinativi, quindi il fatturato riguarda ottobre, ciò che è successo in ottobre, il fatturato dell'industria. Gli ordinativi riguardano il carnet di ordini che le imprese hanno e che quindi poi diventeranno produzione futura. Nel caso del fatturato il dato è negativo, un calo del 5,9% questo ottobre rispetto all'ottobre di un anno fa, e anche in ottobre rispetto a settembre il dato è negativo. Bisogna dire che è un dato tutto sommato in linea con quello che già avevamo tirato fuori qualche giorno fa sulla produzione industriale, e dà un'idea di una situazione difficile dell'industria. Gli ordinativi che riguardano, qualche anno ci danno delle indicazioni sull'andamento futuro, purtroppo anche quelli al momento non fanno vedere nulla di buono. C'è un calo su base annua di circa il 12%, bisogna dire che riguarda sia la componente nazionale sia estera, quindi sono sia i mercati nazionali che esteri che in questo momento non tirano. E per quanto riguarda i singoli settori, che cosa è possibile dire? Chi è che va peggio? I settori, ci sono delle differenze, bisogna dire, in un quadro complessivamente negativo ci sono delle differenze. Da una parte c'è la produzione di mezzi di trasporto, che è il settore che sembra più colpito in termini di fatturato, con un calo di oltre il 18%, ma purtroppo ce ne sono anche altri che segnano cali importanti, per esempio tessile, abbigliamento meno 12%, produzione di articoli in gomma e materie plastiche meno 11%, la meccanica, che è in produzione di macchine e apparecchi meccanici, che è un comparto molto importante dell'industria italiana, segna un calo del fatturato del 10%. E lo avete appena sentito, un calo del fatturato nel settore auto addirittura del 18%. Questo implica che le aziende che lavorano appunto in questo settore siano in grave difficoltà. La Fiat è evidente che è certo il nostro costruttore di auto, ma anche tutto l'indotto. E allora veniamo proprio alla Fiat. Lavoratori con contratto a termine che non saranno confermati, e poi cassa integrazione contemporanea in tutti gli stabilimenti, questo dal 15 dicembre al 12 gennaio. E sulla situazione della Fiat Dario Ceccarelli ha sentito Gianni Rinaldini della FIOM CGIL. Allora Rinaldini, questi dati sono molto preoccupanti. Sono molto preoccupanti, e questi dati sono anche, come dire, dato che sono a consuntivo, I dati sono ancora più preoccupanti se visti nella prospettiva dei prossimi mesi, poiché la Fiat ha già annunciato che dopo la chiusura dal 15 dicembre al 12 gennaio saremo di fronte a stabilimenti che lavorano una settimana al mese. Quindi non c'è solo la fermata preannunciata, ma siamo di fronte ad un piano della Fiat pesantissimo, e insisto, non riguarda soltanto l'auto, perché tutto si concentra, ma in realtà riguarda anche l'Iveco, che è nella stessa situazione, riguarda i veicoli commerciali, riguarda il movimento terra. Nuovo e forse decisivo incontro oggi a Milano fra i vertici della CAI e l'Air France. Ci aggiorna Stefano Totoro, che si trova presso lo studio di questo notaio milanese dove si sta svolgendo l'incontro. Stefano. Sì, buongiorno a voi nostri ascoltatori. È in corso da circa 3 ore l'incontro fra le delegazioni di Air France, KLM e CAI per discutere e mettere a punto il contratto per la partecipazione del vettore franco-olandese alla nuova Alitalia. Presenti i vertici di CAI, Rocco Sabelli e Roberto Colaninno, e per Air France il direttore generale Henri Gourjon. Fra gli aspetti da definire nel negoziato fra Roma e Parigi, gli accordi di partnership, il ruolo dei francesi interessati ad acquisire il 25% di CAI con un esborso pari a 250 milioni di euro. Intanto CAI ha sospeso le assunzioni dei futuri dipendenti su richiesta dei sindacati. Oggi alle 15.30 a Roma riprende l'incontro fra CAI e sindacati per decidere sulle nuove assunzioni. Per il momento è tutto. Grazie a Stefano Totoro e salutiamo la nostra prossima ospite, che è Giulia Crivelli. Buongiorno, con Giulia per andare sulle pagine dei giornali stranieri come ogni giorno. Giulia, cominciamo dalla Spagna, dove c'è una notizia di cui abbiamo parlato anche ieri, ci sono ripercussioni insomma anche sulla stampa. Sì, forse meno di magari quanto uno potrebbe aspettarsi, nel senso che se guardiamo i giornali di oggi, la posizione del Vaticano contro Zapatero e contro la Spagna, accusata di essere uno stato latrico, cioè che idolatra lo Stato, sui giornali spagnoli invece la notizia viene messa nelle pagine interne. El País, per esempio, ha un trafiletto a pagina 39, ma la questione della laicità dello Stato è in realtà ancora dibattuta. C'è, per esempio, oggi su El País una pagina intera dove si parla, un filosofo fa un intervento sulla decisione di togliere il crocifisso dalle scuole, ammette che è una decisione che può infastidire o magari anche addolorare i cattolici, però allo stesso tempo cerca di spiegare come siano passi verso appunto quella laicità dello Stato che in molti paesi europei dovrebbe essere una cosa ormai acclarata, e invece forse in Spagna e in Italia naturalmente è un po' meno così, è ancora un po' meno realtà. Attraversiamo l'oceano, Giulia, New York Times. New York Times invece torna su un'altra questione, anche qui una grande dimostrazione secondo me di grande giornalismo. New York Times ha sostenuto Obama, aveva sostenuto anche Hillary Clinton, ha sostenuto a suo tempo Bill Clinton. Questo non impedisce però a questo grande quotidiano di tornare a fare le pulci a Bill Clinton e alla sua famosa fondazione. C'è tutto l'elenco delle persone che hanno donato dei soldi a questa fondazione, ci sono moltissimi personaggi di spicco anche medio orientali, e il problema naturalmente è il conflitto di interessi, cioè se Hillary Clinton potrà davvero essere indipendente dalla figura del marito, che a sua volta per la sua fondazione, che poi ha scopi benefici, però ha ricevuto soldi anche da persone che in qualche modo, se non altro, hanno interesse a influenzare la politica estera americana. E siccome Hillary sarà il ministro degli esteri di Obama, ovviamente il pericolo c'è. Grazie a Giulia Crivelli. Restiamo negli Stati Uniti, perché a 95 anni è morto un personaggio, insomma, restato ignoto per 30 anni. Però sì, non poi... si sapeva il suo nome, perché è stata la gola profonda dello scandalo Watergate. Ormai lo conosciamo tutti, abbiamo visto anche i film, molti se ne sono stati fatti negli anni 70. E scandalo che costò la presidenza. A Nixon. Allora sentiamo. Sono Bob Woodward del Washington Post. Signor Markham, lei è qui per occuparsi delle frazioni al Watergate. Io non sono qui. Era il numero 2 dell'FBI all'epoca dello scandalo Watergate, e solo nel 2005 aveva rivelato al mondo di essere lui, gola profonda. L'uomo che aveva informato i giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, sui segreti di Richard Nixon. Felt, gola profonda, soprannome preso da un celebre film pornografico degli anni 70, per molti anni aveva nascosto infatti la sua identità. Raccontando le manovre dell'ex presidente repubblicano contro i suoi oppositori democratici, confidenze che poi venivano puntualmente riportate sul Washington Post, costrinse Nixon a dimettersi nel 1974. E nel 1976 un film dal titolo Tutti gli uomini del presidente, diretto da Alan Pakula, raccontò la tenacia con la quale Woodward e Bernstein, interpretati da Robert Redford e da Dustin Hoffman, portarono a termine la loro inchiesta giornalistica, inchiesta per la quale ottennero un prestigioso premio Pulitzer. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Innovazione o fallimento, non usa mezzi termini il segretario del PD Veltroni parlando al suo partito. La questione morale è centrale e con noi non c'è posto per i disonesti, dice Veltroni, ma non accetto lezioni di moralità dal Presidente del Consiglio. Tutto si può accettare, sinceramente, tranne le lezioni che vengono da chi tra le sue file è indagati per reati connessi alla mafia e alla camorra. Da chi, mi riferisco al Presidente del Consiglio, e voglio dirlo senza alcuna concessione alla demagogia, ma per semplice verità dei fatti, ha scelto di fronteggiare le sue vicende giudiziarie varando una serie infinita di leggi ad persona. L'inchiesta sul sistema Romeo punta dritto verso gli appalti e le politiche della Regione Campania governate negli ultimi 8 anni da Bassolino. È scritto nero su bianco nella richiesta dei pubblici ministeri al giudice per le indagini preliminari. Oggi i magistrati sentono gli assessori sospesi della giunta Iervolino. Intanto l'ex assessore Cardillo ha respinto tutte le accuse. Riforma della giustizia, interviene Berlusconi. I tempi sono immediati perché si è scatenato di nuovo il meccanismo mediatico giudiziario delle intercettazioni e delle indagini. La riforma è già pronta, assicura il Premier, che apre all'opposizione e a possibili suggestioni. Crolla il fatturato dell'industria italiana. A ottobre giù del 5,9% rispetto ad un anno fa. Anche peggio vanno gli ordinativi, che nell'ultimo anno sono calati del 12,2%. Giampaolo Neto, direttore scientifico ricerche congiunturali dell'Istat. Nel caso del fatturato il dato negativo, calo del 5,9% questo ottobre rispetto all'ottobre di un anno fa, bisogna dire che è un dato tutto sommato in linea con quello che già avevamo tirato fuori qualche giorno fa sulla produzione industriale e dà un'idea di una situazione difficile dell'industria. Redditi non dichiarati per 27 miliardi e mezzo di euro e oltre 6.400 evasori completamente sconosciuti al fisco. Questi alcuni dei dati principali contenuti nel rapporto 2008 della Guardia di Finanza. Il comandante generale D'Arrigo dice: dalla lotta all'evasione si potrebbero recuperare 90 miliardi di euro. Medio Oriente, 2 missili sono stati sparati dalla striscia di Gaza nel sud di Israele dopo l'annuncio da parte di Hamas della fine della tregua. Non sono state segnalate vittime. Calcio, sarà Italia-Inghilterra agli ottavi di Champions, dai sorteggi escono Juventus, Chelsea, Inter, Manchester e Roma Arsenal. Prima di tornare a Napoli per parlare dell'inchiesta sugli appalti truccati, c'è un'ultima ora che riguarda il prezzo del petrolio, che ha rotto la soglia dei $34 al barile, dunque petrolio in forte discesa. A New York i futures con scadenza a gennaio scendono fino a $33.4. E come detto torniamo a Napoli. In apertura di Extra Large vi abbiamo fatto sentire le parole con cui Walter Veltroni, alla direzione del PD riunita questa mattina a Roma, ha commentato la situazione. Poi abbiamo fatto il punto sull'inchiesta e sugli appalti truccati con gli interrogatori che riguardano gli ex assessori e gli assessori sospesi della giunta Iervolino, che sono agli arresti domiciliari. E ora l'inchiesta però si sta estendendo anche alla regione. In diretta da Napoli la nostra inviata Raffaella Calandra, che si trova proprio davanti alla sede della Regione Campania. Raffaella. Esatto, un sospetto che corre ancora una volta attraverso i cavi del telefono. Devo andare a Santa Lucia, dice Alfredo Romeo, l'imprenditore, cuore dell'inchiesta. Io qui a Santa Lucia mi trovo, cioè alla sede della regione. E nella regione Romeo ci stava entrando, secondo l'accusa, attraverso il rapporto col consigliere regionale più votato, Pasquale Sommese, PD, chiamato in causa ma non indagato per una mediazione sul piano casa della Campania, ci ha detto di voler allontanare ogni sospetto. Noi lo incontreremo tra un'ora, ma intanto proprio qui davanti alla regione, appunto dove mi trovo, un gruppo di un centinaio di persone ha protestato contro il presidente Bassolino. Fino a un po' di tempo fa hanno urlato: ladri, andate via. Sono operatori della sanità privata convenzionata a cui sono stati tagliati i fondi, ma che hanno reagito anche con proteste all'ultimo scandalo cittadino. E Raffaella Calandra da Napoli, hai fatto questa intervista questa mattina, hai sentito il presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Leonardo Impegno. Sentiamo che cosa ti ha detto. Io credo che ci siano tutte le condizioni per fare un patto di metà consiliatura, con una giunta nuova, rinforzata, con gente che abbia sangue freddo, competenza, capacità e siano anche persone sane. La reazione di molta gente è che invece tutti quanti voi vogliate restare incollati alle poltrone con il Vinaville, come disse il sindaco. Ma io mi sto ponendo un altro problema, un problema di recuperare quel rapporto di fiducia che si è spezzato con i cittadini, e lo recuperi solo se la politica ha credibilità, e oggi la credibilità è pari allo zero. E non passa attraverso delle dimissioni dopo un terremoto così forte? La mia valutazione è che il problema politico è grande quanto una casa, cioè noi dobbiamo mettere su carta tutti i limiti, tutti gli errori, e io dico anche i fallimenti di questi 15 anni di governo di centrosinistra. Dare credibilità alla politica secondo me significa mettere in campo una nuova classe dirigente. E allora ringraziamo la nostra collega inviata a Napoli, Raffaella Calandra. Ci spostiamo invece in Medio Oriente. Sì, perché due missili sono stati sparati quest'oggi dalla striscia di Gaza verso il sud di Israele, dopo l'annuncio da parte di Hamas della fine della tregua appunto con Israele. Tregua durata 6 mesi e che era stata concordata grazie alla mediazione dell'Egitto. E restiamo in zona, perché questa sera una stella molto particolare risplenderà nel cielo di Betlemme. Sarà infatti inaugurata una cometa che sarà posta sopra la chiesa della Natività. Un simbolo di pace, un dono commissionato dalla provincia di Lecce, realizzato da un artigiano italiano, pugliese. Siamo veramente ovunque. E allora sentiamolo, Antonio Santoro, l'autore dell'opera, al microfono di Paolo Scandale. Ne stiamo parlando da maggio, giugno. Hanno avuto la mia disponibilità per fare questo progetto per Betlemme, anche se il progetto iniziale era ben più grosso, si doveva illuminare anche Gerusalemme e la piazza di Betlemme. Per scriverci un po' questa sua opera? Ma diciamo che è stata un po' faticosa, perché l'abbiamo dovuta fare in alluminio. Diciamo che sarebbe una stella tridimensionale messa proprio sulla porta della Natività, con una coda di 20-25 metri tirata su un palazzo adiacente. In questa sua opera che arriva a Betlemme, cosa c'è della tradizione salentina? Portiamo proprio questo tipo di luminari che sono, diciamo, un po' differenti da tutte le altre. E come ogni fine settimana, come ogni venerdì, i consigli per il weekend del nostro gastronauta Davide Paolini. Per una serata a Verona, oggi vi porto in un locale, Al Pompiere, questo ristorante che io definisco trattoria, ma trattoria proprio per dargli un valore positivo. Perché? Perché c'è un bancone in cui sono mostrati formaggi e salumi, frutto di una grandissima ricerca di Stefano Sganzerla, il patron, che devo dire è sempre il primo ad arrivare su nuovi produttori, su nuovi casari, ma non si mangiano solamente ovviamente salumi e formaggi, ma si possono mangiare dei piatti anche di tradizione come la pasta e fagioli. Buoni sono anche le carni, a cominciare dalla pastisada de caval, chi la ama, con polenta, o dal cappone tiepido in agrodolce. E ancora, per chi ama finire con una zuppa inglese, qui veramente si trova il meglio di questo prodotto. E per i vini fatevi consigliare da Stefano, perché Stefano sicuramente, come ho detto, è un grande talent scout. Lo ripeto, Al Pompiere, vicolo Regina d'Ungheria, a Verona. GR Extra Large, prima di chiudere un rapido riepilogo delle notizie principali della giornata. Innoviamo o saremo travolti, così Walter Veltroni alla direzione del PD, riunita da questa mattina a Roma. Si discute di questione morale e organizzazione interna. Siamo persone per bene, ha detto il segretario, per i disonesti non c'è posto nel PD. L'inchiesta sugli appalti truccati a Napoli, oggi gli interrogatori di garanzia dei due assessori e due ex assessori comunali agli arresti domiciliari. Già ha sentito l'ex assessore Enrico Cardillo, che ha respinto le accuse. Vado via a gennaio perché i tagli alla finanziaria sono inaccettabili, l'ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega alla protezione civile, Bertolaso. Il presidente della Camera sul caso della presidenza di vigilanza Rai, opportuno e doveroso porre fine a questa anomalia, ha detto Gianfranco Fini. Crolla a ottobre il fatturato dell'industria italiana, meno 5,9% rispetto all'anno scorso. In un mese la diminuzione è stata del 4,3%, male il settore dell'auto. Il rapporto annuale della Guardia di Finanza, nel 2008 ci sono stati scoperti più di 6.000 evasori totali. Champions League, i sorteggi degli ottavi di finale, triplice sfida Italia-Inghilterra, Juventus-Chelsea, Inter-Manchester United, Roma-Arsenal, il CT della nazionale inglese Capello commenta: quella di Nyon è un'urna diabolica. Addio alla gola profonda del Watergate, è morto a 95 anni Mark Felt, l'uomo che con le sue rivelazioni contribuì a portare alla luce lo scandalo, culminato poi con le dimissioni del presidente Nixon. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori, in studio Alessio Maurizi. E Alessandra Tedesco, il prossimo GR oggi non sarà alle 15, bensì alle 16, e noi ci risentiamo lunedì, come sempre, alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.